La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 77. Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. L'articolo 77 disciplina la seconda eccezione alla funzione legislativa delle Camere, cioè è il secondo caso in cui può essere direttamente il governo a intervenire con un atto che ha la forza di legge. Abbiamo detto che per architettura costituzionale la funzione legislativa spetta al Parlamento. Il governo può intervenire solo in 2 casi, su delega, cioè quando sia il Parlamento ad autorizzare il governo a emanare un atto con forza di legge, articolo 76, e poi qui con l'articolo 77, che disciplina invece il decreto legge. Che cos'è il decreto legge? Il decreto legge è un atto straordinario, un atto per fronteggiare casi straordinari di necessità e di urgenza. Quindi, a fronte di casi straordinari, il governo, invece di aspettare una legge che disciplini il punto, interviene con un atto provvisorio, un atto precario, perché è un atto che resta in vigore solo per 60 giorni. In questi 60 giorni il Parlamento deve esprimersi per valutare se mantenere quel testo legislativo, modificarlo o eliminarlo. Tecnicamente parliamo di conversione in legge. Quindi, a fronte di casi eccezionali, il governo emana un atto che ha la forza della legge. Quest'atto resta in vigore per 60 giorni. Entro quei 60 giorni il Parlamento deve pronunciarsi per stabilire se il testo è convertito in legge, quindi convalidato, o se deve essere eliminato dall'ordinamento giuridico. Come idea, il decreto legge dovrebbe rappresentare un atto del tutto straordinario ed eccezionale. Nella storia, i casi classici di decreto legge ricorrono per fronteggiare calamità naturali, casi di guerra o anche aumenti delle tasse, perché tradizionalmente si diceva che se bisogna aumentare una tassa in quanto lo Stato ha bisogno immediatamente di avere un incasso, non lo si può fare con legge, perché altrimenti durante l'esame della legge ci sarebbe l'accaparramento di quel bene e quindi l'effetto dell'aumento della tassa non sarebbe immediato per le casse dello Stato. Storicamente abbiamo casi interessantissimi sull'aumento della tassa sul sale, l'aumento della tassa sulla farina, sul grano, o da ultimo in anni più recenti l'aumento del prezzo della benzina o del prezzo delle sigarette, cioè di beni che contengono un'accisa molto vantaggiosa per lo Stato. Il decreto legge ha conservato questa sua natura di atto eccezionale almeno fino a tutti gli anni 70. Poi col crescere della difficoltà da parte del Parlamento di approvare le leggi, il decreto legge ha stranamente mutato la sua natura e quindi assistiamo sempre più di frequente a decreti legge che non sono emanati per fronteggiare casi straordinari, casi imprevedibili, ma decreti legge che sostituiscono l'iniziativa legislativa ordinaria. Questo accade perché? Perché il decreto legge, nel suo cammino parlamentare, ha una strada perfettamente delineata e con un tempo preciso di scadenza, i 60 giorni. Quindi, ove il governo vuole attuare il suo programma o prendere un provvedimento, se parte con l'iniziativa legislativa ordinaria, non si sa mai in quanto tempo si arriverà alla deliberazione parlamentare. Invece col decreto legge sei sicuro innanzitutto che quel testo entra immediatamente in vigore e poi che entro 60 giorni il Parlamento deve pronunciarsi. Ecco che, per tutti gli anni 80, 90 e anche in questi ultimi decenni, molto spesso quando il governo deve assumere decisioni importanti lo fa attraverso decreto legge. Ma tuttavia questi decreti legge non sono, come vorrebbe la Costituzione, atti straordinari per fronteggiare l'imprevedibile, ma sono atti di ordinaria attività politica che di straordinario mantengono solo questa procedura particolare. Anche negli ultimi mesi, quando il governo deve assumere un provvedimento importante per la sua agenda politica, interviene con decreto legge, ad esempio con il cosiddetto decreto fiscale, cioè per accompagnare il bilancio con ulteriori misure e manovre in materia fiscale, viene emanato un decreto legge e quindi un atto che ha un iter, una procedura immediata, garantita e a tempi certi. Ecco allora che nella vita costituzionale il decreto legge, da atto straordinario ed eccezionale, si è trasformato in una specie di iniziativa legislativa rinforzata, una modalità per approvare le leggi in tempi certi.